24 mattino di Alessandro Milan. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. You're frowning, it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're argumentative and you've got a face on. Lo Ius Soli non ci sarà più, rinviato in autunno, e cioè all'anno di San Mai. Altra sconfitta per Renzi, altra sconfitta per la sinistra delle chiacchiere, la sinistra radical chic. Piccola grande vittoria della Lega e dei cittadini che si sono mobilitati in Parlamento e soprattutto nelle piazze, hanno fatto i conti, hanno visto che il paese non è con loro, hanno rimandato. A me non basta il rinvio, è una legge sbagliata, la cittadinanza deve essere una scelta consapevole che un ragazzo fa a 18 anni, non è un biglietto al Luna Park, e quindi se ci riproveranno torneremo a far battaglia in Parlamento e nelle piazze. Noi abbiamo appreso stamattina che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare a settembre la discussione dello Ius Soli. Questo vuol dire che avremo più tempo in estate per abolire i vitalizi. Già, caro Di Maio, i vitalizi, la questione dei vitalizi. La questione dei vitalizi che Di Maio poi ha voluto rilanciare presentandosi a una conferenza stampa con un elenco di 2000 e rotte persone. C'è Gianni Rivera, Ilona Staller, persone che ricevono il vitalizio ed è una vergogna, secondo lui, va tutto cambiato, eccetera. A un certo punto però, caro Di Maio, non nuovo a queste gaffes, ne fa un'altra. Carlo Taormina, 2150 euro al mese di vitalizio. Un certo Boneschi si è fatto un giorno in Parlamento, prende 3108 euro al mese di vitalizio. Un certo Boneschi. Dopo un giorno in Parlamento, 3108 euro al Boneschi mese di vitalizio. Che è morto nel frattempo e quindi non prende nulla. Poi era un radicale, i radicali facevano queste cose, no? Li mettevano un giorno, ma non per prendere il vitalizio, era anche una forma di protesta, e comunque è morto Di Maio, non prende più nulla. Confonde il congiuntivo con il condizionale. Vabbè, credo che il nostro Vincenzino De Luca si riferisse proprio a Di Maio, caro presidente, caro Vincenzo, no? È notoriamente uno sfaccendato, nel senso che non ha mai lavorato in vita sua. Questa ce l'ha con me, questa si sa, ce l'ha con me. Luigino Di Maio, no? È stato capace in 24 ore di vincere contemporaneamente la sua guerra lampo contro la storia, la geografia e la grammatica. In una botta sola. Vabbè, si sa. No, vogliamo vedere al vicepresidente della Camera, adesso si scatenano, sei antigrillino, niente, non sanno ridere. Le persone si svegliano e non sanno ridere. Non sono mica tutte come il nostro Federico Novella che ride ancora, per esempio, delle disfatte di Cardiff, sorride, è contento. Sentilo qui. Buongiorno, buongiorno. Federico ancora Novella. Ti ricordi di Cardiff? Passano le settimane, ma Cardiff è fantastica perché non solo la Champions League, sì. Praticamente da tutte gli strascichi di Cardiff è da lì che genera il fatto che abbiamo soffiato Bonucci alla Juve. Certo. Cioè, tutto nasce da tutte le strade portano a Cardiff. Cioè, vedi una vittoria del Real Madrid, cosa ha portato? Cioè, tutta una serie. Sì, ma io sono certo che dopo questo calciomercato, insomma, rossonero così scoppiettante, voi siete instradati verso il triplete, ma veramente sì. A grande velocità. Ah, certo, a grande velocità. Certo. Ci vorranno magari un anno solo, ma. Come il triplete della Juve di quest'anno. Sì, vabbè. Guarda come si sono già scatenati. Perché secondo te allora i vitalizi non sono una vergogna? Oppure lo prendono i suoi eredi, Somaro, la difesa di Di Maio. Ha detto un certo Boneschi, un certo Boneschi prende 3.108. Cosa c'è da difendere di fronte a questa gaffa? Un certo Boneschi morto prende 3.108 euro. Più chiaro di così. Comunque. Vabbè, però ce lo rende anche più umano questo ma ragazzo. Sì, qua, ma no? Dai, ma ha fatto una gaffa. Ma ridetene, ma insomma. Per una volta. Vedete, caro Federico, c'è chi non ride invece, tu lo sai. Lo so bene. C'è chi non ride. Professionisti serissimi. No, c'è chi non ride. Per esempio, la nostra Aurorina Lussana. La nostra Aurora che. Signori. Pronto? Sono qui, aspetta. Pronto. Aspetta che tiro giù. Signori, è tutto no, vero. Stavo sentendo il Novella e sentendo il Milan, Radio 24. Sì, il Novella e il Milan. Allora, ho una bella notizia per te e una pessima notizia per te. Apriamo il Parlamento, dimmi tu da che cosa vogliamo iniziare. Ragazzi, se prendete un caffè e gli state sopra così, io vi vogliamo iniziare dalla bella notizia? Voglio un po' indurare la pillola. Il Neue Zürcher Zeitung. Il Neue Zürcher Zeitung, giornale bello. Quotidiano di Zurigo, svizzero. Caro Federico, questa è una grande notizia. È partito con questa notizia. Sì. Me lo ripeti il titolo? Il Neue Zürcher Zeitung. No, senti cosa c'è su stamattina? Ma lo senti questo finale? Cos'è che c'è su una macchina del caffè? Cosa c'è? No, cosa non c'è? La senti il giochino Rossini, Guglielmo Tell. Il Guglielmo Tell, il Guglielmo Tell, giustamente. Il nostro eroe nazionale. In onore della Svizzera. Il Neue Zürcher Zeitung ha sancito questo. Nel 2050 la Lombardia sarà svizzera. Ma gli svizzeri lo sanno? Non lo so. La Lombardia ci vogliono gli svizzeri. A me andrebbe benissimo, per esempio, staremmo molto molto meglio. Guarda, staremmo molto molto meglio. Anche la Svizzera starebbe meglio con noi lombardi. Ecco, la Svizzera secondo me siamo sarebbe il cantone che manca. Di colpo diventeremo, come direbbe la Lussana, i terroni della Svizzera, cioè questo proprio i reietti della Svizzera. Però molti accetterebbero, devo dire, molti accetterebbero il ruolo, no? Vabbè, esatto. Comunque no, dico economicamente, cioè voglio dire egoisticamente, ma questo lo dico egoisticamente, i lombardi starebbero molto meglio, cioè questo è innegabile, come se si mettesse il Sud Tirolo in Austria, come se si mettesse il Veneto in Austria, come se si mettesse il Trentino in Austria, il Piemonte, non lo so, però no, diciamo capisco. Che noi con il Maroni qua in Lombardia stiamo benissimo e perché si sta bene col Marco, adesso il 22 ottobre lo sai, si vota per l'autonomia, però questo progetto geopolitico a lungo termine è stata zurichese e insomma ci ricorda bello, che siamo veramente il tampone che manca. Poi bello, mentre bello. La Lombardia è una roba a cui pensano da tanto gli svizzeri e siamo qua. Federico Novella per esempio è un lombardo doc, no non è vero, ma è un lombardo ormai lombardo trapiantato di adozione dai. Tu lo faresti un bel viaggetto in Svizzera? Guarda, non ci andrebbe male, E la, la dogana quindi la dobbiamo mettere a Piacenza? Non lo so. Sì. Ma c'è un confine naturale? Più o meno sì. Più o meno sì. Più o meno sì. E presidiamo i confini. Veniamo alla notizia pessima, signori. Caro Federico, forse tu non sai, ma Ledgardo Arosio, sindaco di Cantù, è decaduto. Ma no, caro Milan, ti aggiorno io. A dieci giorni per fare ricorso, ma di fatto è decaduto. È decaduto, c'è stato molto male. No. È decaduto, dai. Ledgardo, sindaco eletto qua a Cantù, adesso, tu sai, ieri sera ha fatto consiglio comunale, è saltato fuori che questo appalto alla cognata in realtà forse è legittimo e quindi bisogna un po' indagare questa cosa. Bisogna indagare. Forse decade l'appalto. Forse decade l'appalto, perché Federico, è un grande dramma, cioè il trionfo del sindaco, si è scoperto che in campagna elettorale la cognata ha preso un appalto da parte del comune e questa cosa è vietata per lei, è sintomo di decadimento. Ma noi vogliamo bene a Ledgardo Arosio, però capisci che questa vicenda ci procura un po' di, come dire, ci lascia perplessi, mettiamola così, ci lascia perplessi, ma guarda che non sono risate di scherno, giuro, come quelle con Di Maio, però capisci che una legge così con forte rilievi anticostituzionali come dice Onida, che abbiamo ascoltato, Onida il suo nuovo mito, Onida, prima era il presidente della Corte Costituzionale di sinistra, adesso dice che è giusto che non decada Ledgardo, Onida è diventato il suo mito. Vabbè. Ho capito, ma l'amministrazione precedente 10 giorni dal voto dà a una cognata di un candidato tristemente trasporto. È una situazione kafkiana. Va bene, questa è la pessima notizia. Dai, allora veniamo alla questione politica. Caro Federico, le notizie politiche si giriamo sempre lì. L'immigrazione, gli immigrati, lo Ius Soli, non se ne esce. Caro vabbè, Federico. Ma tu pensavi davvero che con quello che sta succedendo sull'immigrazione avrebbero portato avanti lo Ius Soli? Cioè Gentiloni non è che, a Roma si dice, non è che è sceso dalla montagna del sapone, cioè sapeva che lo Ius Soli è una manovra politica e Renzi l'ha sempre spinta con un'urgenza che non si capisce da dove arriva per creare dei problemi a Gentiloni, no? Gentiloni ha detto guarda, qui purtroppo saltiamo tutti per aria se insistiamo sullo Ius Soli adesso. Poi tra l'altro lo Ius Soli potrebbe essere anche scritto meglio, perché ribadisco, da una parte non c'è nessuna urgenza e dall'altra, così come è scritto, poteva suonare come un incentivo al grande massi di migranti per sbarcare sulle nostre coste e siamo già messi molto male. Non è male questa espressione che se non scende dalla montagna del sapone. Sì, sei sceso dalla montagna del sapone, come dire, sei nato ieri, si dice a Roma, nei quartieri popolari. Ma non è vero, non solo, guarda. Perché... Anche a Cantù. Facciamo questo grande gemellaggio. La morata a Roma è vero, un'espressione molto efficace. Molto efficace. Ma a me Roma piace, ti do una notizia. A te Roma piace? No, Roma antica. Ah, Roma antica. L'antica Roma, la dove sono innamorata dell'antica Roma. Antica, quella degli antichi romani, quella bella. Vabbè. Quindi stai dicendo che dovremmo ridurre a rovine anche la Roma moderna. Ma certo, ma infatti no. questo vorrei, questa capitale estera, ricordiamo, per Aurora Lussana, tre righe dagli esteri, Roma. Roma, ogni giorno nel suo giornale ideale, che è il Neue Zürcher Zeitung, ricordiamo. Del resto è oltre il Po, Roma è un paese esotico. Esatto. E vabbè. Cara Aurora, dai il tuo momento, di quello che vuoi sullo Ius Soli. Tanto moriremo tutti salvini, si sa, sono tutti salvinisti, tutti leghisti, ci fanno diventare così e ci fanno diventare cattivi. Sono 20 anni che cattivi, diciamo quelle brutti, robe sporchi. E 20 anni che l'immigrazione infatti quando siete state al governo avete risolto la situazione in una maniera pim pum pam. Ascolta, c'erano grossi problemi nonostante ci fossimo noi al governo. Ovvio che è un fenomeno molto complesso. Oggi c'è Maroni, c'è il Bobo che la spiega bene la storia, oggi mi pare sul Corriere, ai suoi tempi, quando era lui ministro dell'interno 2011, aveva fatto una svolta importante, perché nel senso Straordinario, infatti ha detto avevo dato i permessi straordinari, Maroni. Sì. Bravo, allora adesso andrebbe fatto. No, no, adesso no. Una precisazione importante, lui dice, io avevo bloccato le partenze. Sì, lui, il Maroni, accordi, il Bobo. Cioè, li ha adottati come ministro allora, ma oggi dice sarebbe un rischio boomerang, perché era un lascia passare, però facendo degli accordi per fermare gli arrivi. Cioè, c'era una strategia sull'immigrazione. Sì. Qui non vogliono dichiarare lo stato di emergenza come invece avevamo fatto noi, sì, per motivi politici. Noi? No, sì, il Bobo, va bene. Il Bobo. Ecco, poi, su quella roba qui, l'immigrazione, basta. C'è anche adesso quella roba più patetica, la stretta UE sui gommoni esportati in Libia, ma come si è acconciati? Ormai, ripeto, abbiamo aperto i porti, abbiamo aperto, è come se tu apri casa tua, scrivi sopra, pranzo, cena gratis, entrate tutti, poi a un certo punto dici no, basta, c'è troppa gente. Basta, cioè, l'abbiamo fatto l'errore. Noi, l'Italia, ha fatto noi il Salvini. Caro basta. Federico, basta, basta. Basta. Adesso anche se dovesse andare su Salvini, basta, ormai abbiamo scritto avanti tutti, avanti tutti. Ormai. È un processo irreversibile. Un processo irreversibile, no, basta. Non lo so, però guarda, io mi sono convinto che serve una soluzione, non è che uno ha la soluzione in tasca, lo sappiamo, no? Ma no, certo. Però serve un qualcosa che possa smuovere i nostri amici europei che parlano di Europa unita, ma solo quando. Ma infatti non capisco questa cosa dei permessi temporanei, perché non la fanno? Pare che il governo dica no, non è allo studio, ma fatelo! Fatelo! Certo che non risolvono, fatelo, è una cosa legale, ma io, fatelo! Io pretendo che i signori dell'Europa, a cominciare dal signor Macron, che ha festeggiato l'elezione con l'inno d'Europa, siamo tutti uniti, ci daremo una mano, ma non lo capisce, e poi riaccompagna ancora i migranti alla frontiera di Ventimiglia. Ecco, vorrei che il signor Macron venisse in Italia, come dire, un po' preoccupato da una misura come quella del permesso temporaneo. Cioè, adesso toccherebbe anche un po' a loro preoccuparsi. No? Ma non lo capisce, infatti bisogna farglielo capire. Quando uno non capisce, è come i bambini di 8 anni, bisogna farglielo capire, o con uno scappellotto dolce, delicato, oppure con decisioni, dire no, è così, basta. E bisogna fare, di fronte a questo, arrivi massicci, una cosa perfettamente legale, come fece il Bobo Maroni, permessi temporanei per girare un anno a quelli che richiedono di essere profughi, un anno così come, rinnovabile per un altro anno, e girano per l'Europa. Gli altri paesi fanno i loro interessi, perché diciamocelo, la favoletta che tutti della solidarietà non abbocca più nessuno, così come gli altri paesi fanno i loro interessi. È il momento che l'Italia faccia il suo interesse, ma certo. Perché altrimenti diventa il ripostiglio d'Europa. Sono d'accordo. Non vogliamo diventare il ripostiglio d'Europa. E intanto andiamo al traffico, va, che qui abbiamo il Neue Zürcher Zeitung che ci sta scrivendo, tra poco. E vai col traffico! Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Ma quando arrivano tutti quanti qua, che siamo 500 milioni, vado io in Africa a quel punto, che hanno lasciata deserta, e mi sposto io. Basta, basta, bisognerebbe parlare di vaccini sapendo di cosa si parla, ma quali cazzo di metalli pesanti. Alessa, sono sempre quel albanese mezzo italianizzato. A me dalla Ius Soli non me ne frega nulla. Io quello che mi interessa è quando vado a rinnovare il permesso di soggiorno abbassassero tutte le tasse, non voglio la Ius Soli, non manderesse nulla la cittadinanza, ma posso ci appare 200 euro, 150 euro per rinnovare il permesso di soggiorno, abbassassero le tasse. Si sta facendo davvero l'impossibile, dobbiamo ringraziare Protezione Civile e Vigili del Fuoco. È evidente che le forze non basteranno mai se le bande di delinquenti vanno ad accendere nei territori dove noi spegniamo. Eccolo lì De Luca. Oh ragazzi, ma quello che è intervenuto davvero è il nostro ascoltatore mitico pugliese albanese. Albanese Tito Federico. Albanese. Sì, c'è qualcosa che mi è sfuggito nel tuo ragionamento, nel tuo sottile ragionamento accademico. Mi è sfuggito qualche particolare, sì, sì, sì. Però molto efficace. È il nostro grande ascoltatore che ci segue, non ricordo il nome, mi spiace per questo, ma insomma ci segue da sempre. Allora siamo con Federico Novella direttamente dal TG4, ma lavori ancora? Di solito fai queste vacanze di 3 mesi. No. Che lavoro ancora. Ma no, figurati, a Mediaset li fa lavorare. Ah, quindi goba, ragazzi. La questione della sera, tutti i giorni. E ora tu piuttosto, sì. Tu piuttosto, sei contento che tra un po' sarai un uomo libero dalle Alpi? Sì, ci mancherai molto a quest'ora, eh? Ci mancherai molto, caro Alessandro. Sta spoilerando i finali. Sta spoilerando i finali. Il nostro adesso Federico Novara. Mancano 8 albe, sveglie all'alba. Non svegliamo tutto subito. 8 sveglie all'alba. In tutto questo, signori, queste sono le notizie che arrivano dall'estero che mi piacciono molto. Per esempio, in Cina, cara Aurora, hanno censurato Winnie the Pooh. Perché ricordava il loro presidente. Sì, effettivamente, in alcune pose, in alcune foto. Un po' plastiche. È un paese serio, lì l'autorità viene rispettata, non è come da noi che ridiamo ormai anche di Gesù Cristo in croce. Così sono paesi dove il pensiero dei paesi seri. Massimo lo mettono in galera. Ah, ecco, dimenticavo, scusami, è il mitico Irzac di Santeramo in Colle che ci scrive subito il nostro albanese barese che ci ha mandato questo messaggio. Ma perché sottolinei le sue origini etniche così? Ma è lui che ce lo dice sempre, Irzac albanese. Va bene. Vuoi dire qualcosa allora, ai tuoi fratelli albanesi, cara Aurora? No, ma non è stesso, no, perché non era essenziale la notizia, la sua origine. Ma è lui che lo dice sempre, sono albanese, ma ormai sono qui di Santeramo. Ma sono robica, va bene. Sì, io vorrei tranquillizzarlo dicendo che fra 30 anni anche l'Albania entrerà in Svizzera. Esatto. È l'augurio che gli faccio. ma non si sta meglio in Svizzera, signori? Federico, cioè adesso sicuramente meglio. Ma perché se uno c'è un posto dove sta meglio deve andare dove sta peggio? È un po' il tema anche dell'immigrazione adesso, cioè perché uno non deve ambire ed aspirare a stare meglio? Capito, però siccome ci sono degli stati con dei confini non è che possiamo andare a vivere dove ci pare. No, infatti solo la Lombardia, non ho detto mica tutti quanti. La provincia di Milano, vogliamo limitare ancora? Esatto, se prendete anche mezza Milano fino a Loreto, poi a sud lasciate pure perdere, a me sta bene, ecco. Facciamo la dogana, invece la facciamo all'inizio a Loreto, di Buenos Aires. A Piazzale Loreto, è anche simbolica, ricorda qualche momento storico. Carica di storia, esatto. Carica di storia, possiamo metterli la dogana. Mi piacerebbe sentire il parere di qualche radioascoltatore. Amici svizzeri, noi disturbiamo poco, guarda, vi portiamo l'Aurora, vi porta anche un sindaco decaduto che piazziamo magari... Ma perché è così profondamente antidemocratico? I canturini hanno scelto per il bene della città l'Edgardo Arosio e lui governerà. Qui bisogna mettersi a lavorare in fretta. L'Edgardo Arosio. L'Edgardo è la persona giusta. Rimarrà. E la Svizzera è vicina. Vallo a dire ai magistrati. Ci sono molte cose da che vedranno i magistrati. Esatto. Signori, in tutto questo, io non lo so, ieri hanno pizzicato, ecco, effettivamente, dagli un volto, dagli un nome, hanno pizzicato un piromane. Sai che si dice sempre, non si beccano questi, sì. Un idraulico di Busto Arsizio, no, lo dico così per la fredda cronaca, quindi Lombardia, che è emigrato dalla Svizzera, no, nel senso è partito dalla Lombardia ed è stato pizzicato nei pressi di Roma, dalle parti di Roma, a appiccare il fuoco. Caro Federico, niente. Registro, evidentemente un idraulico leghista. Registro questa cosa, esatto. Silenzio assoluto quando è stato interrogato. Questa dei fuochi, ragazzi, è uno scandalo, secondo me, incredibile. Anche lì ci hanno arrestati 4 in diverse regioni, non nel senso, diciamo, che li pigliano tutti. Cosa rischiano? Rischiano qualcosa. Però voglio dire, non è una cosa, una vicenda questa degli incendi, caro Federico, vergognoso. Cioè, nel senso, dietro a questi incendi si sa che c'è, lo dicono, la criminalità, forse dei pastori che vogliono, in alcuni casi, purtroppo anche operai forestali, magari per portare avanti le proprie istanze. Sì, Quest'anno più degli altri, cioè io non vorrei che gli incendi, da rischio diciamo naturale ineliminabile, perché comunque siamo geograficamente esposti anche dal punto di vista del clima, però non vorrei che diventasse anche un argomento di ricatto, non vorrei che diventasse un modo per applicare una protesta estrema, perché se lo diventasse saremmo tutti a rischio. È chiaro. Ma è chiaro, cioè in un anno sono bruciati ettari di bosco quanto tutto l'anno scorso, in un mese quanto tutto l'anno scorso, cioè è chiaro che c'è qualcosa dietro, cioè non capisco neanche che tipo di clima ci sia in questo momento per dare luogo a tutti questi incendi. Però è una deriva piuttosto inquietante, devo dire, anche perché si ha la sensazione che lo Stato non abbia i mezzi, non abbia neanche uno straccio di strategia, non sappia da che parte cominciare per affrontare un'emergenza di questo tipo. Comunque, signori, guarda qua, il tuo ospite l'ha detto, e si riferisce a Novella, no? Così come, sì, come Confucio disse: ci sono dei confini e non si può andare a vivere dove ci pare. E io che pensavo che fosse cosa fatta quello che ha detto, Neue Zürcher Zeitung, a meno che appunto non state decide di allargare i propri confini. Ma che, congresso di Vienna, ma che la Svizzera secondo te ci vuole? Ma secondo te ci vuole? Ma chi te prende? Ma chi te prende? Ma chi te prende, Aurora? Ma chi te prende? Ma gli ascoltatori svizzeri neanche ci rispondono. Ma guarda, niente, zero. Stanno lì con la loro cioccolata. Zero. Hanno spento tutti per protesta. Sono passati alla radio svizzera italiana. Tu vedi la TV svizzera a Cantù. Si metti sull'antennina, costano 80 euro, vedi tutti i canali delle cose. Eccolo là. Reato a casa Molteni, reato a casa Molteni, con l'antennina, reato l'onorevole Molteni, ecco, non lo so, appiccicatevi un reato e fate decadere anche l'onorevole Molteni, tutti decaduti a Cantù. Allora, anche la fattura dell'antennista, perché... Facciamo così, vi faccio dare il premio Giachetti, signori, che da un po' di tempo, eccolo. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Forza, il premio Giachetti questa, ragazzi. Questa è una sigla che proprio bam, entra subito. Sfonda. Federico Novella, il tuo premio Giachetti. Ma a rischio di ripetermi, sì, ma lo dico per sentire il commento del nostro governatore. No, a rischio di ripetermi, il grandissimo Gigino Di Maio, eccolo lì. Tu, Aurorina. Ma il giovane signore, quello che doveva, lo è stato un po' in disarmo e non dovrei attaccarlo, perché solo Jussolli l'ha pigliata in saccoccia. Attenzione, perché in chiusura arriva il saluto da Berna, della nostra ascoltatrice Angela. Io ci sono, non sono sicura vi vogliamo tutti, ma parliamo già Angela da Berna dalla nostra parte, e quindi ti abbiamo messo anche Van de Sfross su richiesta anche di un ascoltatore in chiusura, proprio su questa il figlio del Guglielmo Tell di Van de Sfross. Capisci? E allora tutti in Svizzera, signori, dai, tutti in Svizzera, portiamo anche l'Aurora, il decaduto Molteni, il decaduto Arosio e anche Federico Novella. Ciao. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan, anche quelli di Roma, di Napoli, e me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo, quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, siamo qui, sono le 7:19 minuti, siamo anche in diretta sulla nostra pagina radio24.it, sul nostro canale Facebook di Radio 24. Mi potete vedere, è un gran bello spettacolo, ovviamente, mentre mancano 8 sveglie all'alba per le vacanze. E allora siamo qui nella rassegna stampa di 24 mattino, siamo pronti, caro Peter Pescapè, andiamo a vedere cosa ci offrono i giornali oggi. Io voglio la rassegna stampa di Alessandro Milan, o venire, la pretendo. Eccola qua.